ciao, bella mia, sei arrivata. Bella mia, sei arrivata. Quando saremo a Reggio Emilia, mio moroso sarà in piazza. Oh, bella mia, sei arrivata. Dimmi un po' come la va. Mi va bene, le borsette quasi vuote, di cuor son malcontenta, e di cuor son malcontenta, di salute mi va bene, le borsette quasi vuote, di cuor son malcontenta, d'aver tanto lavorato. Quando saremo a Reggio Emilia, i preditor verranno incontro, Mondaris fuori la borsa, Mondaris fuori la borsa. Quando saremo a Reggio Emilia, i preditor verranno incontro, Mondaris fuori la borsa. Che vogliamo essere pagati.